domestica. Simonetta Agnallorbi ci racconta il suo primo impatto con la violenza domestica quando si trovava per lavoro nello Zambia. Nello Zambia non ho incontrato una collega, ho incontrato una cliente che mi diceva che era felicissima col marito, che erano innamoratissimi, lui le faceva tanti regali, erano sposati da tanti anni. Il marito mi diceva lo stesso. E tutt'a un tratto, un giorno, la signora è venuta nel mio studio e mi ha detto: siamo sole? E si è girata, ha sollevato la gonna, ha calato le mutande, ho visto dei lividi orribili su di lei. Il marito era violento, la umiliava, trattava male anche il figlio e vivevano una vita di totale menzogna da anni. E quello che mi ha scioccato è perché questa gente, che erano molto più grandi di me, più importanti di me, dicevano a me che erano felici quando io non chiedevo, io ero solo un'impiegata che mi occupavo del recupero credito delle loro aziende. E poi ho capito che la violenza domestica si nasconde a tutti e si nasconde anche facendo finta di essere felici, che si dice a tutti. E infatti lei nel libro a un certo punto scrive, a proposito di questa storia, che quando vede delle coppie o delle donne che parlano estremamente bene dei loro compagni, lei è sempre un po' diffidente. Non c'è dubbio, ho imparato. Io penso che quando uno parla male o parla bene della gente, spesso lo fa per se stesso o per un altro scopo. È purtroppo triste che l'esperienza di avvocato si rifletta su me come persona, però siamo tutti esseri umani. In questo libro una parte fondamentale che mi è piaciuta moltissimo è il capitolo che lei intitola Io credevo, cioè ci sono molte convinzioni che lei aveva prima di toccare con mano alcuni casi di violenza domestica. Per esempio, si crede comunemente che la violenza domestica interessi soprattutto donne di ceto sociale basso, poco acculturate, e invece? Invece è il contrario, soprattutto in Italia, e questa è una cosa terribile. La Baroness Scotland, che è la creatrice e fondatrice di Eliminating Domestic Violence, che significa eliminare la violenza domestica, è una fondazione globale, ha fatto fare delle ricerche sull'Italia prima di venire qui e ha scoperto che in Italia, tra tutti i paesi di cui lei sa, c'è il tasso maggiore di violenza tra donne educate e laureate da parte di uomini educati e laureati. E questo è sconvolgente. In linea di massima, in tutto il mondo, la violenza è la stessa, qualunque sia la classe sociale o l'educazione o la razza delle persone o l'etnia o la religione. Altra convinzione da sfatare è che nei paesi del nord Europa, vista l'emancipazione femminile, visto il rispetto dei diritti sociali e così via, ci sia meno violenza nei confronti delle donne rispetto ai paesi del bacino del Mediterraneo. Anche in questo caso non è così. Esatto, si parla quasi del 40% in Svezia, a meno del 10% per esempio in Spagna, e l'Italia è il 14% se non mi sbaglio. Sono delle cifre che fanno sempre paura però. Come se lo spiega? Come mai nei paesi del nord Europa secondo lei c'è più violenza che da noi? Allora, io penso che la violenza c'è sempre stata, però la violenza è particolarmente sentita, credo, nei casi in cui c'è stata un'emancipazione della donna veloce, in quanto ricordiamo che la violenza non è gelosia, è potere. L'uomo che non ha più potere sulla donna diventa violento. C'è una storia che secondo lei, fra quelle che ha seguito personalmente, è esemplare per capire le dinamiche della violenza domestica? No, non c'è una storia che è esemplare, le dinamiche sono tante. In linea di massima la violenza domestica comincia con l'amore, col corteggiare, col sedurre, perché l'uomo che commette violenza è un uomo che sa come trattare le donne, come umiliarle, conosce anche la psicologia, non l'avrà studiata. Spesso appare come il mansueto, in genere il buono, il pietoso, e dice: io ho avuto una vita terribile, ho visto la violenza di mio padre su mia madre, devi capirmi, che bella la tua famiglia, ti voglio bene, tu mi hai cambiato, la vita è bellissima da quando sono con te, che bello vedere la tua famiglia. Poi comincia a dire: ma voglio stare un poco solo con te, tua madre è intrigante, non la voglio. Poi dice: ma tu non mi vuoi bene, è vero che tu non mi vuoi bene. Poi le dice: tu sei brutta, hai un orecchio brutto, una faccia brutta, sei cattiva, ma io ti amo, sono l'unico che ti amo, tu mi hai rovinato la vita, sei la persona peggiore che io conosca, solo io sto con te, e la isola totalmente. E dopodiché comincia la violenza, quando la donna non obbedisce, quando ha schiacciato la donna la donna obbedisce, non c'è più bisogno di violenza. Storia esemplare di successo ce ne sono tante, sono quelle in cui purtroppo si è fatto quello che ha fatto la Scotland in Inghilterra, che non è ancora in Italia, cioè che c'è un sistema che è veloce, che capisce e analizza subito le esigenze della vittima e che mette accanto alla vittima, proprio affiancata, una persona che la segua per i primi 3 mesi dal momento in cui si rivela la violenza. Ma non dimentichiamo che le donne rivelano la violenza dopo la 17ª atto di violenza, e dunque dobbiamo cercare di andare dalle donne che sappiano che possono rivelare ed essere aiutate prima di essere maltrattate 17 volte. Questo metodo di cui lei parla, che è stato applicato in Gran Bretagna con grande successo, perché comunque anche le morti sono diminuite, ma anche i casi di violenza domestica, è un metodo fatto di rapidità, di grande concertazione fra tutti i servizi sociali e le magistrature che si occupano delle donne. È un metodo che si può importare anche in Italia? È un metodo che è stato esportato in Spagna, non vedo perché noi siamo diversi dagli spagnoli. È un metodo che significa lavorare insieme, che è fondamentale, avere tutte le agenzie che si occupano di questa materia pronte e disposte a monte a dare un certo tipo di aiuto e a darlo immediatamente. Il tribunale ha una sua importanza, ma nulla è fondamentale quanto affiancare alla donna una persona che possa aiutarla. Nella presentazione, diciamo, di questo libro, nel tour che lei sta facendo, dice spesso che ognuno di noi può fare qualcosa. Ci sono dei segni che possiamo vedere nel vicino di casa, nel collega di lavoro, di cosa ci dobbiamo rendere conto e cosa possiamo fare? Dobbiate purtroppo leggere il mio libro, perché è difficile dare in un'intervista i segni. I segni sono la donna che non vede più tanta gente, che è cambiata come modo di fare, che si nasconde, che a volte si copre il collo, dice che ha un livido, è capitato per caso, e la donna che ha paura e che non parla, la donna che dice quanto è felice con suo marito quando non glielo chiede nessuno. E poi vedere il rapporto di coppia, è chiaro, a me vedere quando c'è violenza in una coppia dallo sguardo che comanda, è la bocca che sta zitta, è l'occhio che si cala. E Patrizia Scotland dice sempre: basta avvicinare una persona che ci sembra sola e triste e dire come stai e aspettare che risponda, anziché passare subito a un altro argomento, perché parlano. Abbiamo parlato di donne, ma naturalmente lei nel libro parla anche di bambini, perché poi sono anche loro vittime di questa violenza domestica. Anche in questo caso questo metodo può salvare la vita di alcuni bambini che altrimenti poi saranno portati a reiterare lo stesso comportamento. È raro nella violenza domestica di coppia che si ammazzi anche il figlio, per cui non, il problema di ammazzare il figlio non c'è. No, però di picchiarlo sì. I bambini sono vittime della violenza diretta o indiretta, perché la vedono, assistono e purtroppo copiano. Le figlie di donne che hanno subito violenza domestica sposano uomini che sono violenti. 1, 2, 3 volte, e i maschi fanno lo stesso. E i bambini sono i grandi perdenti di cui non si parla mai. Si parla tanto delle morti, che sono orribili, e dovrebbe essercene nessuna ovviamente, ma non si parla dei 750.000 bambini che sia in Inghilterra che in Italia sono vittime di violenza, ripeto, diretta o indiretta. E noi dobbiamo pensare al futuro, perché altrimenti non si sradicherà mai. Un'ultima domanda. Nel suo libro si parla anche molto di violenza psicologica, non solo di violenza fisica, domestica. La violenza psicologica è l'anticamera di quella fisica o può esistere di per sé e costituire comunque un pericolo? In genere c'è quasi il corteggiamento psicologico per far sì che la vittima ami e sia totalmente nelle mani dell'uomo. Parlo sempre di coppie eterosessuali, ma ci sono anche le coppie omosessuali che non bisogna dimenticare. E poi in genere c'è la seduzione è avvenuta. Se la vittima è totalmente sotto l'influenza dell'uomo, non c'è bisogno di prenderla a botte, perché quello che l'uomo vuole è il potere. Il potere fisico si può avere tramite il potere psicologico, ma non viceversa. Per cui se lo spirito della donna combatte, devono venire le botte, la violenza fisica. una volta soddisfatta la violenza fisica può essere solo psicologica, a volte però si ripete la violenza fisica come ricordare, o anche perché l'uomo ci è abituato. Ci sono casi in cui la violenza fisica, per esempio, come esercitazione di potere sessuale. E questa era Simonetta Agnellorbi con Il male che si deve raccontare, pubblicato da Feltrinelli. Vi ricordo che trovate anche queste puntate del Cacciatore di Libri in versione estiva, parole e musica, su www.radio24.it, cliccando su Programmi e poi scegliendo Il Cacciatore di Libri. Buona lettura da Alessandra Tedesco.